Aghisaia Call di Love, bello, insomma, a me piace, stavo discutendo con Filippo, ci fossero delle cantanti così a Sanremo, magari le cose andrebbero diversamente. Alessandra, eccoci di nuovo qua. Eccoci di nuovo. Allora, sul blog, cosa si è detto di Sanremo sul blog? Cioè, insomma, c'è qualcuno che l'ha trovato particolarmente innovativo e interessante? Assolutamente no. Ma dai. Nel senso che ti posso dire che, diciamo, quello che si sentiva in giro veniva confermato dai miei lettori più affezionati, perché poi si era creato veramente un gruppo d'ascolto online che era anche simpatico, perché si interagiva, insomma, era una cosa molto carina. E diciamo che in linea di massima sono state poche le cose che sono piaciute, e soprattutto magari riguardavano più qualche canzone o qualche artista in particolare, piuttosto che lo spettacolo e la conduzione. Ecco, quindi tra le cose, per esempio, più riuscite del festival, cosa hanno trovato? Ma guarda, io trovo che secondo me, tipo, adesso mi vengono più in mente le cose che hanno criticato, diciamo, ecco, hanno criticato la scenografia, la mancanza dei fiori. Quella cosa a lutto, tu dici? Sì, un pochino in tono minore. In tono dimesso, che non è molto piaciuta. Forse si sono ripresi un po' l'ultima serata con la trovata della palma del leone, ma anche lì ci sono stati dei pareri discordanti. Anche perché per un momento non sapevo se mi trovassi a Cannes oppure a Venezia. E infatti sembrava più una cosa del cinema, esatto, un infatti. Festival del cinema piuttosto che era l'anteprima degli Oscar, vabbè. Sì, sì, ma loro volevano fare, nelle intenzioni c'era questo. Ah. Panariello alla vigilia aveva detto: vorrei fare una conduzione alla Billy Crystal. Insomma, io bisogna Billy essere... Crystal non l'ho visto, però insomma, ecco, sai, bisogna essere Billy Crystal. La scenografia Crystal della serata finale era sicuramente qualcosa che doveva somigliare alla notte degli Oscar, certo, perché Ferretti, ecco, viene da quelle situazioni là. Certo. Allora, tra l'altro, tu mi dicevi appunto dalle cose più criticate, però mi parlavi anche di una classifica fatta invece dai blogger su Sanremo, quindi probabilmente anche le canzoni preferite, se Povia poi si è meritato veramente questa vittoria. Ma senti, io Povia devo dire che l'ho trovato carino, nel senso che le sue canzoni hanno un socché di ironico e di intelligente e dicono anche delle cose non necessariamente banali. Trovo che lui sia un personaggio che poi alla fine risulta simpatico, anche se magari c'ha un suo ruolo un pochino alternativo, così, però insomma arriva diretto e al pubblico piace, quindi la sua vittoria non stupisce assolutamente. Però la classifica che ho io, che è quella che risulta dai sondaggi che io ho fatto sul blog, sì, ho messo sul blog con delle votazioni online, diciamo che è un pochino rivoluzionaria rispetto a quello che sono i risultati ufficiali. Tipo? Allora, ti posso dire che tra i giovani il vincitore è stata Laura. Ah, vabbè. È quella che ha preso più voti. Vabbè, questo ce l'aspettavamo, perché insomma lei ha un grandissimo successo, fra l'altro è un disco, insomma, che passa tanto e che piace molto, per cui poi ha questo modo di cantare che è un misto tra Mina e qualcos'altro e le Montagne Russe, per cui voglio dire funziona. Poi. E poi invece tra le donne la Oxa è quella che ha avuto più voti di tutti. Ecco, immaginavo, però lì un po' c'è il gioco dell'icona, insomma, anche sì, perché. Sì, probabilmente. Ma è vera sta storia che non si poteva circolare intorno a lei per questo odore di incenso così acre e forte? Sì, lei diciamo che già da prima dell'inizio del festival ha fatto un po' di terra bruciata intorno a sé, perché il suo, diciamo, ufficio management, come si chiama, non ha preteso silenzio stampa, ha preteso la non pubblicazione delle foto, del testo, eccetera. E poi non ha provato insieme agli altri, non ha fatto ascoltare il demo ai giornalisti nelle fasi preliminari. Insomma, ha fatto un po' la diva, ecco. Si è resa antipatica, ecco, resa profondamente antipatica. Poi voglio dire, la stampa scriveva queste cose, certo, quindi la gente che vota da casa o le giurie anche demoscopiche non hanno una buona impressione di un artista che si diciamo regala così poco al pubblico. Chiaro, quindi insomma alla fine però è piaciuta, insomma, ai fan, ecco, diciamo che è piaciuta ai fan che da sempre la seguono, quindi comunque sia lei, esatto, piace sono rimasta stupita anch'io di questo esplodio di voti che c'è stato sul, certo, blog, anche se ritengo che lei abbia fatto una cosa molto particolare, che poi possa piacere o non piacere. Aspetta Alessandra, me lo dirai più tardi, perché sono veramente troppo lunghi, quindi ci lasciaci con questo suspense di cosa avrà fatto.